Ora, intanto noi siamo aumentati nel presidio, quindi è più considerevole. C'è anche da registrare che una delle due entrate su Via delle Sette Chiese è stata bloccata dalla Celere. E, contemporaneamente è arrivato l'avvocato, adesso sta dentro insieme all'Under e alcuni funzionari di polizia. Quello che ci ha detto velocemente l'avvocato è che appunto la firma del ministro per l'estradizione è stata messa, ma l'iter procedurale di tutta l'estradizione non è ancora del tutto completo e pronto, quindi probabilmente lui verrebbe portato in questura o a Via Genova, non so, da qualche parte prima di essere effettivamente estradato. E quindi in questo lasso, diciamo, cerchiamo di infilarci e insieme all'avvocato stiamo cercando di capire, insomma, se c'è la possibilità di temporeggiare. E comunque l'appello è ancora a venire qua, insomma, perché siamo qui davanti e cerchiamo di impedire questa cosa. Va bene, noi lo continueremo a mandare questo appello. Non so, insomma, se ci vuoi raccontare altro, anche come, insomma, voi non siete riusciti ovviamente a vedere l'Under. Sì, no, l'Under è arrivato fino qua sul viale, chiaramente, soprattutto all'inizio, quando sembrava che lo volesse portare via così, senza aspettare un momento, senza neanche fargli vedere il foglio, il mandato di estradizione. Quindi cercavano di farla alla chetichella velocemente tra le 6 e le 6:20. E per fortuna, insomma, siamo riusciti a bloccare quel momento. In quel momento siamo riusciti a vedere l'Under. E niente, insomma, ci sembra assurdo perché chiaramente le guardie, quello che dicono, e noi stiamo facendo solo il nostro dovere, come se stessero davvero estradando un terrorista. Insomma, la cosa davvero assurda è che questo è un cittadino basco che viene estradato per aver danneggiato un pullman più di 10 anni fa, cioè senza né feriti né niente, quindi una cosa davvero incredibile.